sono le ore 9:14 di mercoledì 7 febbraio. E mi sto recando a fare la spesa, cosa che è praticamente una delle poche cose che si possono fare in questo quartiere. Su questo riflettevamo anche con altri abitanti dell'Olgiata. La verità è che esiste proprio un sistema urbano che si colloca lungo la via Cassia e che mette insieme delle borgate come la Giustiniana, la Storta, degli agglomerati semi spontanei come la Cerquetta, dei centri residenziali, delle gated communities come l'Olgiata o come altre zone residenziali come le Rughe, le dispone lungo la via Cassia finendo per creare una specie di città lineare. Tra l'altro il concetto di città lineare ha una sua letteratura. Non è una cosa che nasce da zero, però nel caso in particolare di questa conformazione urbana è particolarmente interessante perché non sarebbe nata se per esempio i romani non avessero deciso di costruire questa strada consolare come facevano spesso sul crinale tra due valli, no? La valle dell'Insugrata da un lato e la valle del fosso Cremera, dove insisteva la città etrusca di Veio, invece a est della via Cassia, no? Quindi la strada viene costruita sul crinale con il classico basolato proprio per evitare che non sia praticabile durante la stagione delle piogge. E sappiamo che aveva anche una funzione soprattutto militare, la grande via di collegamento, e quello che succede è che di tutte le varie consolari a Roma nei tempi moderni, questa, la via Cassia, è una sopra la quale è stata costruita la strada che usiamo oggi tutti i giorni. Sì, ci sono delle varianti, c'è la Cassia Bis, la Cassia Nuova, però di fatto la consolare di oggi per larghissimi tratti ripercorre l'antico tracciato. Il risultato è che, essendo sul crinale, ci sono tantissime vie traverse che sono nate proprio per, diciamo così, ospitare gli insediamenti residenziali che sono stati costruiti a partire dagli anni 50-60. All'inizio erano veramente isolati, si parlava delle ville sulla Cassia. Oggi invece c'è una continuità, perché poi al servizio di tutte queste residenze c'è tutto appunto un sistema di servizi e soprattutto commerciali, che però non nascono in un disegno organico, non c'è dietro nessuna pianificazione urbanistica. E quindi quello che succede è che queste strade si devono inerpicare per arrivare sulla via Cassia e collegarsi, per intenderci, con il resto del mondo, ma finiscono nel nulla quasi sempre. Cioè, non esiste, cioè, il primo collegamento a est con la via Flaminia, l'altra grande strada consolare, è praticamente dopo la fine della città compatta, è il raccordo anulare. Poi più avanti, più a nord, molto più a nord, c'è la via Formellese e la via Sacrofanese che collegano la via Cassia alla via Flaminia, ma a parte queste due strade, che tra l'altro sono una grande infrastruttura, l'altra ancora una via molto antica, però le strade moderne costruite negli ultimi 50 anni non arrivano da nessuna parte, si fermano in mezzo al Parco di Veio a est e all'Agro Romano e alla Valle dell'Insugrata a ovest. E queste strade proprio vengono anche vissute dalle stesse persone come quasi delle strade private, cioè non collegano nulla, tant'è che nei rarissimi casi in cui per qualche ragione collegano qualcosa, no? Pensiamo a Via Thieri che collega la Braccianese con la via Cassia, gli abitanti non percepiscono il ruolo di collegamento e nei primi mesi avevano fatto installare dei New Jersey per bloccare quei cittadini che la volessero utilizzare come strada di collegamento. Cioè, viene comunque percepita come una strada privata. E la cosa forse più incredibile è che il New Jersey venga, che blocca l'accesso da uno dei due lati, viene messo dagli abitanti, senza chiedere il permesso a nessuno, come forma di città, di architettura ostile, di architettura difensiva, no? Su questo anche c'è molta letteratura, c'è una bellissima lezione di Carlo Cellammare al Macro Asilo, si può scaricare online, magari metterò il link su Telegram, che racconta tutto questo. E la Cassia è una città lineare dove ci sono quasi soprattutto blocchi, separazioni, muretti, cioè l'unica cosa che collega è l'antica strada romana, tutto il resto, anche i parcheggi delle piccole aree commerciali, non collegano tra di loro, e quindi non è ovviamente minimamente percepita la vita di un pedone, è percepibile, e né possibile, nessuno fa lo struscio sulla via Cassia. Le persone prendono la macchina, vanno nella piazzola, fanno quelle due cose nel negozio e poi e poi tornano a casa con il, diciamo, bottino di commissioni, di servizi, di spesa. È quello che sto facendo anch'io, sto andando alle rughe con la macchina, naturalmente, e tornerò a casa con la macchina. Questa è una forma di sviluppo urbanistico che, non avendo nessuna policy, diciamo, nessuna politica, nessun interesse pubblico, nessun orizzonte comunitario, è soltanto la risultante fisica di una serie di rapporti di forza tra le persone e tra le attività economiche. Quindi è come se la città fosse disegnata dalle attività economiche e dalla disponibilità delle persone a spendere. Per tanto tempo ho rifiutato l'idea della città lineare, cioè non l'ho mai considerato un posto che veramente abitavo. Adesso che ho un raggio d'azione limitato per ragioni personali, diciamo, e la devo vivere parecchio, e comincio anche a rendermi conto che ci sono tante persone che la considerano davvero la loro città. E disegnano, diciamo, la mappa dei loro interessi lungo questa via. E quindi in qualche modo sta emergendo una dimensione quasi virtuosa, che non faccio propria, naturalmente, però insomma, se esistono anche chiavi di lettura diverse, storicamente penso alla Via Emilia, no? A tutta la rete di relazioni commerciali che si sviluppava lungo la Via Emilia, guarda caso un'altra antica via romana, e che oggi in età contemporanea svolge questa nuova funzione. E non so, forse dobbiamo cominciare davvero ad abbandonare l'idea della città come rete e esplorare quello anche che, su cui ci ritroviamo a spostarci senza averlo pensato, senza averlo pianificato.